Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Una settimana che si sta chiudendo questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, essendo oggi venerdì, bisogna dire senza dubbio è stata sicuramente per noi, per l'Italia, una settimana estremamente intensa. Da una parte i sommovimenti politici, smottamenti possiamo dire anche della politica italiana, la crisi di governo, il rischio della caduta del governo, poi i colpi di scena, la crisi rientrata e quindi la fiducia assicurata, e poi dall'altra parte purtroppo questa enorme immane sciagura del naufragio dei migranti, la più grande tragedia almeno negli ultimi 20 anni. E poi nella giornata di oggi, come se non bastasse per dire quanto è stata ricca e intensa questa settimana di fatti, di avvenimenti di vario tipo, la decadenza, è stata votata la decadenza da senatore di Berlusconi, dalla giunta delle immunità del Senato, che però poi passerà questo voto appunto per l'appunto al Senato. Ma quindi cominciamo da quelli, come voi sapete, questo è sempre l'appuntamento con il riepilogo, il riassunto della giornata, con poi vari ospiti, con i loro punti di vista e gli approfondimenti. Oggi è l'ultima puntata della settimana e cominciamo quindi dai titoli dei fatti principali. Quindi abbiamo detto, la giunta del Senato vota sì alla decadenza di Berlusconi, la palla ora passa direttamente al Senato che dovrà votare nei prossimi giorni. Berlusconi dice: con il voto di oggi è stata colpita al cuore la democrazia. Il PDL intanto attacca Crimi, senatore del Movimento 5 Stelle, che aveva postato su Facebook dei commenti contro Berlusconi, accusano è stata violata la riservatezza della giunta. L'ecatombe dei migranti a Lampedusa, il lutto coinvolge tutta l'Europa, dice il presidente del Consiglio Letta, sospese per il mare mosso le ricerche di decine di dispersi, intanto sono stati recuperati sinora 111 corpi, contiamo sulla barca di persone ce n'erano 500. Papa Francesco è andato ad Assisi e dice no alla chiesa della mondanità, e tantissimi fedeli, almeno 50.000 in strada ad accoglierlo. E infine il fisco, che scopre oltre 1 milione di case fantasma, potrebbero rendere 589 milioni di euro l'anno. E quindi iniziamo ad approfondire, partiamo dal voto di oggi sulla decadenza del senatore di Silvio Berlusconi. È stata votata quindi in questo modo l'ineleggibilità del cavaliere dopo la condanna, come sapete, per frode fiscale. Poi il voto, abbiamo detto, toccherà al Senato, ma intanto oggi c'è stato un gesto piuttosto, come vogliamo definirlo, incongruo del senatore 5 Stelle Vito Crimi, Vincenzo Miglietta. Sì, buonasera Roberta, buonasera. Ciao, ai Vincenzo. Nostri ascoltatori. E partiamo allora sì dalla vicenda Crimi, potremmo dire un po' contro tutti, perché la premessa è d'obbligo, ai lavori di oggi della Giunta per le elezioni è stato dato grande risalto pubblico, era possibile seguire i lavori via streaming. Della prima parte diretta, però mi sembra, no Vincenzo? Sì, fino alla Camera di Consiglio. E quindi però era stato deciso, se diamo questa libertà di seguire i lavori e poi dopo per la Camera di Consiglio invece i lavori saranno a porte chiuse, comunque tutti i senatori avevano sottoscritto un documento in base al quale si impegnavano a non postare, a non twittare nulla relativamente ai lavori e nulla durante quelle ore lì. Invece Roberta, sappiamo benissimo che Crimi, Movimento 5 Stelle, ha postato qualcosa di offensivo nei confronti di Silvio Berlusconi, senza che stiamo qui a ripetere che cosa ha scritto. Comunque delle cose un po' offensive, sì, nei confronti di Berlusconi. E da lì si è scatenata giustamente anche la polemica, non solo del Popolo della Libertà, ma anche di altre forze politiche. Il PDL in prima battuta, che ha chiesto la sospensione proprio dei lavori perché le regole erano state infrante. Questo il corollario invece alla notizia più importante che tu hai anticipato, primo passo quindi verso la decadenza di Silvio Berlusconi, che però ancora non è decaduto. Da oggi c'è tempo, 20 giorni perché questa sentenza passi all'Aula del Senato, e poi lì sarà tutta un'altra storia, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, si voterà in modo segreto. E quindi, sai, l'aula può sempre riservare colpi di scena, come abbiamo visto in questi casi. Grazie Vincenzo Miglietta, in diretta da Roma. Grazie. Buonasera. E sentiamo adesso invece quali sono state ovviamente le conseguenti reazioni a questo voto. Come prevedibile, dal PDL arriva una raffica di dichiarazioni contro la decisione della Giunta. Secondo il presidente dei senatori, Renato Schifani, il copione era già stato scritto e se ne conosceva la trama, ma si è andati oltre ogni limite di tollerabilità. Ora, prosegue Schifani, spetterà al Senato evitare che si consumi definitivamente questo gravissimo vulnus costituzionale e regolamentare. Sandro Bondi, uno dei coordinatori del partito, si domanda invece come sia possibile assistere alla defenestrazione di Berlusconi per mano di un partito, il PD, con il quale il PDL collabora in Parlamento e al governo. Per Maurizio Gasparri la colpa ricadrà su quanti hanno commesso questa incredibile violazione. C'è un'ultima occasione in aula, dice il vicepresidente del Senato, per impedire che si compia uno scempio. Non ci sono reazioni dei vertici del PD, come se da parte dei democratici sia passata la consegna del silenzio per evitare nuove occasioni di polemiche con il PDL. Invece, dall'opposizione, Pino Pisicchio, presidente del gruppo misto alla Camera, si augura che dopo tanto clamore ansiogeno lo sbocco naturale dei lavori della Giunta venga accolto con sobrietà. Invece il segretario di Fondazione Comunista, Paolo Ferrero, è del parere che sia un importante segnale di moralità per il paese. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo naturalmente a parlare dell'altro grande avvenimento fatto, la strage di Lampedusa. Le ricerche sono sospese per il mare mosso sin da oggi, 111 sono per ora i corpi recuperati, ma purtroppo sono ancora molti dispersi, tenendo conto che sulla barca c'erano 500 persone. Quindi che aggiornamenti ci sono da Lampedusa, dalla nostra inviata Raffaella Calandra? Ciao Raffaella. Sì, Roberta, buonasera. Ciao. Si è chiusa con candele accese nel buio la lunga giornata di Lampedusa, nel giorno che è stato del dolore nazionale, del calcolo delle vittime e anche delle visite istituzionali qui nella nostra isola più a sud. Ancora una volta non hai ascoltato il mio grido, recitava lo striscione che ha aperto la fiaccolata che ha attraversato l'isola, a cui hanno partecipato anche molti eritrei come quelli morti nel naufragio dell'ultima e più grave sciagura dell'immigrazione. Centinaia di corpi, come ricordavi, 200 quelli ancora intrappolati all'interno del barcone o nel mare, inabissatosi a 40 metri di profondità, dove oggi non sono riusciti a scendere i sommozzatori per colpa del vento troppo forte. Con un traghetto invece partito da Palermo sono arrivate qui le bare per i 111 morti composti nell'hangar dell'aeroporto, dove è appena andata a rendere omaggio il presidente della Camera Laura Boldrini, tra poco attesa qui dove sono io alla sede del comune di Lampedusa. E vorrebbero andare a salutare e a riconoscere i propri cari anche i 155 sopravvissuti al naufragio, stipati ora insieme a altre 1000 persone nel centro di prima accoglienza dell'isola, che io ho visto anche se da fuori perché non ci è stato consentito di entrare, dove abbiamo visto uomini, donne e bambini spesso dormire anche sotto gli alberi, visto che appunto sono 1055 gli ospiti in una struttura che in questo momento ne potrebbe contenere solo 300, dal momento che 2 anni fa, dopo un incendio, 2 padiglioni sono andati distrutti e mai sono stati rimessi a posto. A Lampedusa c'è dolore, ma c'è anche molta rabbia per queste morti, per tutta l'indifferenza che loro lamentano in tutti i momenti dell'anno, diciamo, laddove in solitaria raccolgono e soccorrono tutti i migrati, mentre invece ora che c'è stata questa strage, diciamo, c'è una grande presenza, i riflettori sono accesi sull'isola e c'è anche una forma anche proprio di dolore da parte dell'isola, che reclama invece un corridoio umanitario per evitare la ripetizione di questa mattanza, come recitava un altro striscione della fiaccolata. Roberta. Grazie Raffaella Calandra, grazie da Lampedusa. E su questo argomento poi ritorneremo, dovremo raggiungere più tardi proprio il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Ma intanto vedo un'agenzia di poco fa, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che parla durante la veglia in Campidoglio per le vittime del naufragio, dice: i 155 superstiti verranno accolti qui in questa città grazie anche alla collaborazione del Ministero dell'Interno, quindi già parlano di accoglienza a Roma dei sopravvissuti, di quelli che sono sopravvissuti per ora i 155. A fare comunque il punto oggi sul dramma è stato il Ministro dell'Interno Angelino Alfano, e in serata ha parlato anche il Presidente del Consiglio Letta, ha detto: questo è un lutto che riguarda tutta l'Europa. Nel giorno di lutto nazionale per i morti di Lampedusa, Enrico Letta sottolinea che quella di ieri è una tragedia che coinvolge tutta l'Europa. Per evitare che fatti del genere si ripetano, il Premier invita l'Unione Europea ad alzare il livello di intervento. Lo stesso fa anche il Ministro dell'Interno Alfano, che riferendo alla Camera oggi ha proposto la candidatura di Lampedusa al Nobel per la pace. Non c'è mai stata nella storia una unione di Stati che non abbia assunto su di sé la responsabilità di proteggere la propria frontiera. Uno Stato che non protegge la frontiera non è, semplicemente non è. E allora l'Europa deve scegliere se essere o se non essere. Ad intervenire è anche il presidente Napolitano, che sollecita nuove leggi a tutela di profughi e richiedenti asilo. Nel frattempo, mentre continuano le polemiche sulla Bossi-Fini, la presidente della Camera Boldrini e il ministro per l'integrazione Kyenge, dopo gli attacchi della Lega, incassano l'elogio delle Nazioni Unite. Secondo l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, le due hanno svolto un ruolo guida nel cambio di atteggiamento delle autorità italiane sull'immigrazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo anche del Papa, naturalmente, che oggi ha fatto il suo viaggio ad Assisi. È stata una giornata intensissima anche per lui, poi nella città che è quella del santo del quale ha preso il nome, e ha lanciato di lì un forte messaggio. Dice: perché la Chiesa si spogli della mondanità, un vero cancro che uccide, l'ho detto in questo luogo appunto altamente simbolico, che è la sala della spoliazione nel Vescovado, che è il primo Papa a entrare in questo luogo dove il giovane Francesco d'Assisi si spogliò dei suoi abiti per abbracciare Madonna Povertà, come diceva, incontrando lì poveri assistiti dalla Caritas, tra cui tanti stranieri. Francesco ha puntato il dito contro quello che ha detto lo spirito del mondo, alla base anche di tragedie come quella di ieri a Lampedusa, per la quale, dice, oggi è un giorno di pianto. Per cambiare completamente argomento, parliamo anche di Telecom, di Alitalia, delle questioni economico-finanziarie, delle acquisizioni che ci sono, insomma, sul tappeto per quanto riguarda il dibattito pubblico e politico, e sugli investitori esteri. E cosa rappresentano gli investitori esteri? La colonizzazione del nostro paese oppure sono un'opportunità? A questa domanda ha risposto oggi, durante Focus Economia, Giuseppe Recchi, presidente di ENI e del Comitato Investitori Esteri di Confindustria. Io non trovo che ci sia un valore nell'italianità dell'azionista, cioè l'azionista, secondo me, che sia una società pubblica quotata, l'azionariato diffuso, non vai a vedere che passaporto ha. Quello che è importante è che invece chi compri perché trova nell'azienda acquisita un valore aggiunto particolare, vuoi che sia la tecnologia, vuoi che sia il suo brand, vuoi che sia il suo mercato. E quando compra, quindi noi dobbiamo far di tutto perché trovi nel nostro paese le condizioni migliori per produrre qui, per fare di questo acquisto il suo, diciamo, hub di espansione all'estero, o di inserire il suo acquisto nella hub che già ha costruito. Allora così aiuteremo le nostre imprese a ingrandirsi e a sfruttare opportunità. Se noi invece non ci focalizziamo su questo e ci preoccupiamo di proteggere il passaporto senza permettergli di andare bene, secondo me sono, diciamo, mosse di breve termine, ecco, a lungo poi ci ritroveremo col problema. Tra l'altro, a proposito di Alitalia, un'agenzia che sto guardando in questo momento, dice, a proposito di Air France, 1800 tagli sono previsti al personale di terra in Francia, che Air France dovrebbe fare questa partnership o l'acquisizione, ancora non si sa bene, di Alitalia. Passiamo a parlare invece adesso delle case fantasma. Avete sentito che sono sfuggite a centinaia al catasto e quindi anche al fisco. Quanto vale questa operazione e come difendersi? Domani sul Sole 24 Ore in edicola c'è l'approfondimento su tutti i numeri di questa operazione, della Guardia di Finanza, dei valori emersi, le conseguenze fiscali per i proprietari interessati e le modalità per difendersi dall'attribuzione di rendite presunte da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per chiudere, occupiamoci anche di calcio. La UEFA ha condannato la Lazio a giocare a porte chiuse contro l'Apollon Limassol alla prossima partita interna di Europa League, il tutto perché a causa di nuovi episodi di cori razzisti da parte dei suoi tifosi nella gara contro il Legia Varsavia. Il club è stato condannato anche a una multa di 40.000 euro. Adesso prendiamo questa pausa per aggiornare chi sta viaggiando, poi vi ricorderò i titoli dei fatti principali e cominciamo con gli ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima di passare agli ospiti vi ricordo i titoli principali di oggi. La Giunta del Senato ha votato sia la decadenza di Berlusconi, la palla ora passa direttamente al Senato che dovrà votare nei prossimi giorni, e Berlusconi dice: con il voto di oggi è stata colpita al cuore la democrazia. Il PDL intanto attacca Crimi del Movimento 5 Stelle, che aveva postato delle frasi offensive su Facebook contro Berlusconi, e lo accusano, dice, è stata violata la riservatezza della Giunta. La strage di migranti a Lampedusa, il lutto, dice il presidente del Consiglio Letta, coinvolge tutta l'Europa. Sono state sospese per il mare mosso le ricerche di decine di dispersi, sono stati recuperati per ora 111 corpi, sulla barca di persone ce n'erano 500. Papa Francesco è a Assisi, dice no alla chiesa della mondanità, e in 50.000 sono stati i fedeli ad accoglierlo in strada. Il fisco scopre oltre 1 milione di case fantasma potrebbero rendere 589 milioni di euro l'anno. E direi di passare al nostro primo ospite. Giovanni Ursina. Buonasera. Buonasera Giovanni Ursina, docente di storia contemporanea e vice direttore della School of Government dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Il professor Giovanni Ursina, fra le varie cose, ha scritto anche un libro e ha scritto anche un editoriale ieri sulla stampa. Questo libro si intitola Il berlusconismo nella storia d'Italia, che è un testo più che politico storiografico proprio, si può dire così, Ursina. Ci ho provato, diciamo, non è cosa facile di raccontare 20 anni. La missione è stata quella, giudicare dalle reazioni, almeno in parte ci sono riuscito, però naturalmente la materia è troppo viva e calda perché il testo è in evoluzione, no? Storiografico. Nel suo libro Ursina, visto che è stato pubblicato un po' prima di quando ci stiamo sentendo noi, quindi non sono rientrate le ultime evoluzioni, gli ultimi colpi di scena e quello che ancora dovrà accadere, perché secondo lei, che ha studiato bene il fenomeno Berlusconi, a cui riconosce un grande carisma, grande intelligenza, grande capacità di leadership, che non ha avuto concorrenti né dentro il suo partito ma nemmeno nella politica italiana in generale, come legge questa ultima, per il momento, tappa con la decadenza di oggi e con le ultime decisioni, no? Leggevo anche sugli ultimi aggiornamenti, sulle agenzie, sui giornali, che da Berlusconi ci sono dei segnali di distensione interni, voglio dire, al PDL. Forse avrebbe accettato di lasciare la leadership ad Alfano, ma io non sono molto convinta. Lei che dice? Anche io, come tutti quanti noi, sto facendo semplicemente dei tentativi di capire, e sulle previsioni mi muovo con grandissima cautela. Chiunque altro al posto di Berlusconi sarebbe morto e sepolto. Vero. Politicamente, si intende, da anni. Ma anche fisicamente, io penso. Anche fisicamente, no, sono sorpreso da questo, cioè sono sorpreso che dopo i 2 mesi che ha passato sia effettivamente ancora in uno stato di salute a quel che pare buono, insomma, perché è stato veramente, veramente pesante, immagino sia stato pesantissimo per lui. Quindi, diciamo, darlo per finito è una cosa che io non farei. Neanche per io. Una questione di prudenza, anche perché l'abbiamo dato per finito tantissime volte e tutti noi analisti siamo stati smentiti infinite volte, e insomma un po' di prudenza, un po' di imparare dai propri errori, non è che faccia male, siamo anche d'accordo. Professori universitari, quindi. E detto questo, è evidente che stiamo parlando di una fase terminale, questo è chiaro, non si sa quanto durerà, però è una fase terminale che ha avuto vari passaggi. Io addirittura nel mio libro l'ho dato dal 2006 l'inizio della fine, malgrado nel 2008, come è noto, Berlusconi abbia avuto una grande vittoria elettorale, però il 2006 secondo me è un primo punto, il 2011 naturalmente ne è un altro. Quando è caduto il governo seguito dal governo tecnico, no? Il 2011. Beh, la caduta rovinosa del quarto gabinetto Berlusconi alla fine del 2011, seguita da Monti, lì sembrava, io ho cominciato in quel momento a scrivere il libro da storico dicendo, insomma, mi pare che il fenomeno possa considerarsi concluso, e sono stato naturalmente smentito, quindi per questo sono così cauto. Detto questo, è evidente che quello che sta accadendo appunto nella frattura con Alfano è la frattura fra le due anime storiche del berlusconismo, quella populista, movimentista, protestataria, anti-istituzionale da un lato, e quella invece moderata, di centrodestra classico, istituzionale e responsabile dall'altro, che sono due anime che nel berlusconismo sono sempre esistite, e dirò di più, sono sempre esistite dentro Berlusconi, non solo dentro il berlusconismo. Ora, queste due anime in questo momento si sono, diciamo, staccate l'una dall'altra. Credo che sia nell'interesse di entrambe le anime e di chi le incarna, cioè Berlusconi da un lato e Alfano dall'altro, di invece cercare di tenerle insieme per salvaguardare l'eredità di un centrodestra che possa essere e che possa aspirare a vincere le elezioni. Quindi secondo lei, Ursina, a parte il suo auspicio, c'è la possibilità, lo chiedevo anche ieri o l'altro ieri a Malano forse, di un ricompattamento, nel senso che capiscono tutte e due le anime che, scindendosi, insomma, rimangono un po' senza la loro metà? Io credo che questo sia chiarissimo sicuramente a Berlusconi, sicuramente ad Alfano e a buona parte delle cosiddette colombe. Non so se sia chiaro ai falchi oppure se i falchi non abbiano più che non capito, credo che abbiano capito benissimo, abbiano invece un altro disegno politico in testa, anch'esso come tutti i disegni politici legittimi. Io credo che l'abbiano capito e che Berlusconi abbia fatto determinate azioni negli ultimi giorni a partire dalla decisione di votare la fiducia a Letta proprio perché questo ce l'ha ben presente. Detto questo, poi le due anime possono anche separarsi in termini organizzativi, cioè nulla impedisce che ci siano due partiti o due gruppi parlamentari, poi le formule pratiche possono essere le più varie. Però non sarebbe la stessa cosa, diciamolo sinceramente, Orsina, no? No, non sarebbe la stessa cosa, però anche in dipendenza dal sistema elettorale, con un accordo potrebbero ricostruire poi comunque uno schieramento che possa ambire a candidarsi alla guida del paese. Questo è un'altra opzione. Certamente il partito unico è la scelta più semplice, migliore, sempre nell'ottica, naturalmente, io sto ragionando dal punto di vista del centrodestra, non è un auspicio personale questo, io sto cercando di capire come potrebbero muoversi, qual è il loro interesse. Credo che l'interesse sia chiaro a entrambi, è quello di stare insieme. Non è detto che però poi l'accordo si trovi. Non basta la buona volontà, poi in politica ci servono anche delle convergenze oggettive e la capacità di trovare dei punti d'incontro. Qualche volta i punti d'incontro non ci sono e malgrado la buona volontà si divorzia. Pare che Alfano dovrebbe telefonare nei prossimi giorni al PP, al Partito Popolare Europeo, per chiedere di farne parte, insomma, insieme al PDL, al centrodestra, al movimento che creerà, non è ben chiaro. Questo cosa significa? Che si muove lui al posto di Berlusconi, che quindi c'è davvero questo passaggio di consegne, secondo lei? Ma si muove lui in che senso? Nel senso che chiederebbe questa cosa sì, per il PDL, per la nuova Forza Italia, per lo schieramento che vuol creare lui, cioè questa cosa verrebbe dopo un nuovo schieramento creato da Alfano o prima? Questo rimane un punto interrogativo, effettivamente. Perché questo cambia tutto, naturalmente. Lì il punto, però, quello che a me sembra rilevante è che diciamo che secondo me va sottolineato, è che la componente populista e protestataria, chiamiamola così, del berlusconismo non è una componente secondaria, cioè l'idea di fare il partito moderato, il partito alla CDU, il partito istituzionale, il partito che appartenga al PPE, eccetera, eccetera, è un'idea che naturalmente ha tantissime frecce al proprio arco, però renderebbe molto difficile alla nuova forza politica parlare a una parte dell'elettorato, una parte importante dell'elettorato berlusconiano, che invece è una parte di elettorato che è molto più sollecitata dalla versione movimentista di Berlusconi. E quindi la vera difficoltà, e poi quello che è stato in termini politici il miracolo di Berlusconi, è tenere insieme queste due anime. Tra l'altro vedremo, Orsina, prima di chiudere, come si terranno ancora insieme queste due anime, le dice anche quella moderata, più istituzionale e responsabile, dal momento, non so se rientra un po' sempre, diciamo, nel vocabolario comunque di Silvio Berlusconi, il fatto di aver detto con questa decisione è stata colpita al cuore la democrazia, se ci saranno quindi, mi chiedo, delle manifestazioni, delle proteste, delle decisioni, oppure era una cosa comunque che andava detta, essendo appunto Berlusconi, essendo anche scontato questo voto della giunta, e poi in Senato si vedrà, come si diceva, nulla è scontato invece lì nei prossimi giorni. No, ma questo è uno dei punti essenziali, il problema del rapporto fra politica e giustizia e quindi poi della parabola personale di Berlusconi è uno dei temi cruciali sui quali non per caso sempre Berlusconi ha rotto con i moderati della propria coalizione a partire dall'UDC di Follini, Casini. Non è un caso che quello sia un tema centrale, perché dentro il berlusconismo c'è una protesta contro un certo tipo di equilibrio istituzionale, in particolare una protesta sullo squilibrio fra politica e giustizia. Chi vuole ereditare il berlusconismo, questo tema non lo può lasciare, anche se si vuole candidare a essere il partito istituzionale, moderato, lo può declinare in forma diversa, ma non può dimenticare che questo è un problema reale che va affrontato, così come non può dimenticare il problema della pressione fiscale, che ovviamente crea un incastro, perché se si vuole essere pro-Europe ovviamente questo richiede un certo modo di tenere i conti pubblici, ma se si vuole parlare dell'elettorato berlusconiano il tema fiscale diventa un bisogna tema battere, centrale. Bisogna battere su quel tema. La ringrazio intanto Giovanni Ursina. Grazie molto a voi. Grazie, buona serata. Adesso ci fermiamo perché c'è un'altra pausa e volevo sentire un attimo, vediamo che cosa sta dicendo Antonio Di Pietro a Virus su Rai 2. Vedo agitato come spesso. Sto dicendo che l'Italia dovrebbe andare a invadere. Bene, volete fare il sentimentale senza no, di me. Lascia parlare Ludwig, perché tu hai detto. C'è Ludwig, il politologo degli Stati Uniti, stanno parlando probabilmente di flussi migratori, di problemi legati all'immigrazione, credo. No, ma non si può, il dramma umano di questo genere, dire il Papa cosa ha detto? Il Papa è un irresponsabile, perché predica l'amore, perché predica la comprensione, perché predica l'accoglienza, perché predica la solidarietà, ma qual è che ci stiamo a fare a questo mondo? Dove il più forte si mangia il più debole? E su questa domanda direi di lasciare il talk show a se stesso e noi ci ritroviamo tra pochissimo. Vi ricordo anche che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte, notizie 60 minuti, Roberta Giordano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E vediamo quali sono le notizie principali di oggi, sempre Roberta Giordano con voi. La Giunta del Senato ha votato la decadenza di Silvio Berlusconi, adesso nei prossimi giorni, entro 20 giorni, la palla dovrebbe passare al Senato che voterà in modo definitivo sulla ineleggibilità del senatore Berlusconi, il quale dice con il voto di oggi è stata colpita al cuore la democrazia. Il PDL intanto attacca il senatore del Movimento 5 Stelle, Crimi, che faceva parte della giunta per le elezioni e le immunità che doveva votare e aveva postato intanto su Facebook dei commenti offensivi nei confronti di Berlusconi. Quindi lo accusa il PDL e dice è stata violata in questo modo la riservatezza della giunta. La strage dei migranti a Lampedusa, il lutto, dice il presidente del Consiglio Letta, coinvolge tutta l'Europa. Sospese per il momento a causa del mare mosso le ricerche di decine di dispersi, i corpi recuperati per ora sono 111. Papa Francesco, nel suo viaggio ad Assisi, dice no alla Chiesa della mondanità e in tanti sono 50.000 fedeli ad accoglierlo in strada. Il fisco scopre oltre 1 milione di case fantasma, potrebbero rendere 589 milioni di euro l'anno. E passiamo quindi al prossimo ospite. Solo voi con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Alberto Negri, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Sì, buonasera a tutti voi. Alberto, prima di parlare di una serie di cose che spero ci aiutino un po' a capire il fenomeno della migrazione, da dove vengono, chi sono esattamente, perché tante chiacchiere magari a volte si fanno così un po' in libertà, ti volevo anche sottoporre, se ti va, così un po' a caldo, la parola del giorno, clandestino, ecco perché mettevo questa musica in sottofondo. Tu come lo definiresti il termine, come lo tradurresti il termine clandestino? Io lo tradurrei soprattutto come un termine molto vago perché chiunque di noi è un clandestino, tutto sommato, chi non ha provato forse nella propria vita a prendere un autobus senza il biglietto o un treno senza avere in tasca il documento di viaggio e forse attraversare magari una frontiera senza avere un visto sul passaporto o non avere un documento, ecco, ognuno di noi potrebbe essere in un momento determinato della sua vita un clandestino, soprattutto se poi determinate situazioni si producono dove vive, se è costretto magari per un motivo legato alla guerra o rivolgimenti politici, sociali, economici a lasciare la propria casa. Quanti sono i clandestini che attraversano la frontiera per trovare un lavoro? Nella nostra storia sono stati migliaia e migliaia, e da quel Nord Africa che noi vediamo adesso buttare sulle nostre sponde migliaia di persone disperate, beh, quello era un posto dove migravano anche gli italiani. All'inizio del secolo scorso in Tunisia lavoravano più di 100.000 italiani, molti di loro nei campi o addirittura nelle miniere. Alberto, ecco, quindi mi hai introdotto la parola del giorno, ma adesso invece parliamo di parte di questa tragedia di cui appunto si sta parlando, perché è ancora più grande di quelle avvenute finora. Alfano stesso oggi ha detto non sarà certamente l'ultima. Qualcuno pensa che magari questa gente venga perché ha visto in televisione il Bengodi, lo chiamano italiano, perché molti magari intendono anche delinquere, però mi sembra che in questo caso soprattutto ci fossero morte moltissime donne, moltissimi bambini che molto difficilmente anche delinquono, anzi in genere sono vittime poi dei delitti e dei reati. Scappavano soprattutto da Eritrea e Somalia, no? Quindi questo significa che scappano dalla guerra, dalla fame, ci sono degli scenari che neanche immaginiamo. Non solo, ma molti delle popolazioni del Nord Africa, del Maghreb che passano di qua, molti di loro passano soltanto per una tappa, perché vanno in paesi europei più ricchi del nostro. I ragazzi egiziani di Piazza Tahrir 2 anni fa, mi ricordo che avevano documenti di viaggio e biglietti per l'Italia, ma dicevano che forse non sarebbero venuti in Italia perché sapevano già che c'era una crisi economica e che mancava il lavoro. In Tunisia ne sono informati, in Libia anche, cioè ormai queste popolazioni che vediamo arrivare di qua in massa in genere sono arrivano dal profondo dell'Africa, da quell'Africa, da quel corno d'Africa ormai destabilizzato da decenni, da quella Somalia che è più di una generazione che non conosce altro che guerre, che fame, che carestie. Ne abbiamo visto anche le conseguenze qualche tempo fa a Nairobi, che cosa significa oggi la Somalia, e l'Eritrea, un paese che è stato come la Somalia del resto un'altra nostra ex colonia, ricordiamolo anche, no? Sono paesi dove un tempo si parlava la lingua italiana, ormai quasi del tutto dimenticata, e sono paesi che vivono da sempre, da alcuni decenni, situazioni molto molto molto critiche, e scappano da questi posti dove non c'è lavoro con la speranza di andare in Europa e poi di poter mandare i soldi a quelli più sfortunati che sono rimasti a casa. Qualcuno dice che in realtà in Germania, in Francia, in Svezia ne arrivano molti di più, in Italia sono una minoranza rispetto a quelli che arrivano negli altri paesi, però da noi sbarcano, no, fra le altre cose. Ma sì, sbarcano perché noi siamo una specie di avamposto, di portaerei in mezzo al Mediterraneo, con Lampedusa che è questa propaggine meravigliosa, di mare meraviglioso, che però non da oggi, da 20 anni ormai è il punto di approdo per tutti, quindi in qualche modo mi ha anche oggi un po' infastidito, se devo dire la verità, questo spettacolo dei politici italiani che si accapigliano, si insultano, no? Dopo aver fatto prima la TV del dolore, il giorno prima dichiarato il lutto nazionale, il giorno dopo si insultano, arrivano all'invettiva facilmente l'un contro l'altro armati, non rendendosi conto che in realtà anche quando invocano poi l'aiuto dell'Europa, beh, insomma signori, Lampedusa potrebbe essere meglio attrezzata da noi stessi, non dobbiamo aspettarci proprio tutto dagli altri, no? Alberto, c'è in collegamento, ecco, siamo riusciti a raggiungerlo finalmente, il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, che ringrazio visto che adesso sarà tirato da tutte le parti. Rimani, Alberto. Governatore. Buonasera. Buonasera Crocetta. Senta, lei oggi ha detto chiaramente, a parte che lei ha un ruolo così delicato in questo momento perché la Sicilia è proprio, dicevamo, questo avamposto nel Mediterraneo e anche il ponte sul mare di un continente intero, no, dell'Europa. Lei ha detto che sono fallite tutte le politiche di immigrazione, la stessa Frontex, la stessa agenzia dell'Unione Europea che dovrebbe gestire il pattugliamento, il monitoraggio delle coste, e anche si è scagliato come molti altri contro la legge Bossi-Fini. Crocetta? Io credo che le linee europee di intervento sono vecchie, come vecchia la legge Bossi-Fini. Per carità, io non voglio accusare nessuno di avere concepito una legge così con uno spirito criminale, per carità, le logiche erano quelle di bloccare i flussi migratori, di ridurli al massimo, lo slogan era immigrazione zero. Solo che tutto questo è stato sconvolto dall'evolversi delle cose, non solo diciamo le trasformazioni, gli incrementi demografici che ci sono nella parte del mondo e che non avvengono invece nel vecchio continente, ma tutte le questioni nuove che sono emerse anche con l'incremento demografico da una parte, ma anche i processi di destabilizzazione sociale, politica, economica, per cui oggi si fugge dall'Africa per fame, per dittature, e si fugge anche ormai dall'Asia, dal Medio Oriente per le guerre. Ora, noi non è che possiamo fare le anime belle rispetto a questa cosa, perché quando dico le anime belle, noi non dobbiamo dimenticare che per esempio abbiamo dato una soluzione alla Libia che è una non soluzione, perché analizziamo oggi da chi è governata e come è governata la Libia. Oggi la Libia c'è un governo che io continuerei a chiamare provvisorio, che doveva liberare quel paese dalla dittatura. In realtà abbiamo un paese che è in mano all'anarchia, a gruppi terroristici, e quindi le persone continuano a scappare, fra l'altro gente armata, a contrabbandieri che fanno traffici di armi, traffici di uomini, in mano a una criminalità che diventano sempre più organizzate, e si fugge anche dalla Siria, non è che si scappa più dall'Eritrea e basta, io so, per fame o per questioni legate ai diritti umani, si scappa anche dalla Siria, e ciò che si è prefigurata fino all'altro giorno in Siria era qualcosa che avrebbe fatto ancora più scappare più gente possibile, perché si profilava un intervento militare. Allora diciamo che c'è una destabilizzazione del Mediterraneo in generale, che non dipende sicuramente solo dall'Europa, però viva Dio, se la gente vuole, c'è la guerra, è chiaro che scappa. Cioè, cosa farebbero gli italiani se si trovassero di fronte a un paese in guerra con una serie di situazioni a rischio di intervento internazionale? È inevitabile scappare. Rosario Crocetta, mi perdoni, abbiamo una pausa adesso, vincolate perché dobbiamo aggiornare chi sta viaggiando. Ritorniamo tra poco con lei, anche con Alberto Negri, anche perché vorrei chiederle cosa ne pensa dell'ONU che ieri attaccava l'Italia e oggi ha detto, grazie alla ministra Kyenge e alla presidente Boldrini, l'Italia sembra aver cambiato atteggiamento con, per esempio, l'aver deciso una giornata di lutto nazionale oggi. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima di riprendere la chiacchierata con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, e il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, vi ricordo i titoli principali, come facciamo ogni quarto d'ora. La Giunta del Senato ha votato sì alla decadenza di Berlusconi, adesso la palla passa al Senato che dovrà votare nei prossimi giorni. Berlusconi parla di un voto che oggi ha colpito al cuore la democrazia. E poi ne stavamo discutendo, appunto, l'ecatombe di migranti a Lampedusa, il lutto coinvolge tutta l'Europa, dice il Presidente del Consiglio Letta, sospese per il maremosso le ricerche di decine di dispersi. Papa Francesco è Assisi, ha detto no alla Chiesa della Mondanità, 50.000 i fedeli in strada ad accoglierlo. E il fisco che scopre oltre 1 milione di case fantasma, potrebbero rendere 589 milioni di euro l'anno. Alberto Negri, volevi fare una considerazione su quanto sta dicendo il Presidente della Regione Sicilia, Crocetta? Ma, guarda, io ho vissuto i rivolgimenti delle cosiddette primavere arabe sul posto, torno periodicamente in questi luoghi, in Libia ci sono stato un mesetto fa, in Egitto pure, in Tunisia anche, ci troviamo di fronte a situazioni assai problematiche, che non sono delle novità, ho visto la guerra in Iraq, in Siria, ma cosa si pensava? Che finiti questi regimi, abbattuti questi dittatori, si potesse instaurare una democrazia dall'oggi all'indomani, oltretutto in paesi che presentano problematiche molto differenti tra di loro, ma che in genere vanno in una unica purtroppo direzione, che è quella di stati falliti o semifalliti, che hanno delle difficoltà enormi a tenere insieme dentro i loro confini le loro stesse popolazioni. La Libia è un paese enorme, con un fronte desertico assolutamente permeabile. Se uno affronta una strada verso l'oase di Kufa, in Libia vede popolazioni che si aggirano, nere, che arrivano dall'Africa, da qualunque parte, al confine tra l'Egitto e la Libia arrivano dal Sudan, altre arrivano dalla Nigeria. Insomma, quindi un fenomeno inarrestabile. Alberto Negri, io so che sei a un convegno, quindi ti ringrazio e ti saluto, Alberto. Ti ringrazio, a un prossimo appuntamento allora. E volevo finire anche con il presidente della regione Sicilia Crocetta. Dicevo, ha sentito che l'ONU oggi invece ha detto che l'Italia ha cambiato atteggiamento, però al di là di questi organismi internazionali che ci dicono più o meno come siamo o come non siamo, che cosa noi invece, Crocetta, e lei che è governatore della Sicilia con Lampedusa, che cosa bisogna chiedere all'Unione Europea o che cosa bisogna chiederci di fare? Ma io credo che il Presidente Letta debba chiedere un vertice europeo sui temi dell'immigrazione, tenendo presente che gli strumenti vecchi non funzionano più, sono inattuali, e che noi dobbiamo passare dal concetto di immigrazione zero invece al concetto di immigrazione programmata, soprattutto che si rivolge alle aree a rischio, soprattutto a favore della gente che rischia la vita e alle zone di guerra, programmando in qualche modo l'assistenza e l'aiuto. Voglio dire, quando c'è stata la crisi libica, alla frontiera tunisina sono state allestite ritente per 500.000 persone. La Tunisia è un paese povero, però ha ospitato temporaneamente i libici, ma anche altre popolazioni che scappavano tanto la solidarietà. Allora oggi credo che l'Europa abbia il dovere di organizzare la solidarietà internazionale. Un'altra politica è possibile, ma non funziona. Cioè, voglio dire, non è che la politica è il rigetto, ha mostrato di essere completamente fallimentare e di produrre solo un incremento dell'immigrazione clandestina e ha trasformato il Mediterraneo in un grande cimitero. Allora, guardi, noi siamo esterrefatti. Rispetto, io sono andato a vedere i morti, ma è giusto morire in questo modo? È chiaro che dice, ma noi che potremmo sopportare tutte le popolazioni che arriveranno in Europa per chiedere rifugio e asilo? Sicuramente noi, ma nessuno, sicuramente non è che si sposta il mondo intero, però se noi facciamo un minimo di politica concertata, ma anche concertata con i paesi rivierasche, confinanti, ma anche con tutti i paesi europei, è chiaro che l'Italia si trova in un paradosso, cioè quello di dover ricevere tutta la spinta, la maggior parte dei flussi migratori, però voglio ricordare che in questo paradosso ci si trova più la Sicilia, però in modo ancora più, e questo lo voglio dire con chiarezza, mentre in Sicilia non si parla il linguaggio dell'intolleranza, nessuno ha offeso mai né i vivi né i morti in Sicilia, anche quando i sindaci siciliani si sono trovati ad accogliere i migranti, come è accaduto e come continua ad accadere quando sono giovani, per esempio minorenni non accompagnati, che per la legge italiana sono a carico dei comuni che li ospitano. E questo noi ci troviamo e vengono inviati nei centri di accoglienza per ordinanze prefettizie o dei magistrati. Mm. Ci troviamo di fronte a piccoli comuni che sono andati in dissesto finanziario per l'obbligo che hanno avuto per legge di ricevere quei migranti. Abbiamo avuto dei sindaci. È un problema enorme. È un problema enorme, però non si può lasciare un piccolo comune fallire. Certo. Quei sindaci l'hanno fatto, non hanno protestato, hanno fatto l'aiuto umanitario, però io credo che il Ministero dell'Interno debba rivedere questa legge che è stata fatta un anno fa, che paragona i minori anche stranieri a normali minori clandestini. Ci sono molte cose, Presidente, da fare. Io le chiedo scusa, ci dobbiamo lasciare perché stiamo per chiudere. Io le auguro buon lavoro, che sarà un lavoro pesante, durissimo, e vedremo, insomma, riavremo modo di risentirci per quello che si riuscirà a fare, anche già per Lampedusa, oltre che per il resto. Grazie, Presidente Crocetta. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. E adesso invece, prima di lasciarci per la prossima pausa, per cambiare argomento, volete sapere domani che tempo ci sarà? Domenica vi siete organizzati? L'autunno ormai, colonnello Giuliaci, è arrivato, in questo minuto che ci rimane, per dire come stanno le cose questo fine settimana. Sì, buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene, e direi che sarà un fine settimana un po' tra i più brutti che abbiamo visto negli ultimi 2-3 mesi, anche di più, perché avremo 72 ore di pioggia, ci saranno piogge forti su molte aree e domani freddo su molte regioni. Rapidamente diciamo che già sta piovendo sul Piemonte, sul Ponente Ligure, nella notte piogge su tutto il nord tranne le Venezie, domani mattina piogge su tutta l'Italia, nel pomeriggio e domani schiarite sulle regioni di nord-ovest, ma peggiore al sud. Domenica ancora piogge diffuse su tutta l'Italia, tranne la Sardegna. Domenica sera migliora sulle regioni centrali, ma ancora piogge sul resto d'Italia. Bene, una grande allegria, www.meteogiuliacci.it. E ecco, tutte queste informazioni potete trovare direttamente sul mio sito, Roberta. Quindi coprirsi bene, maglione, ho già il mal di gola, infatti. Ombrello e calosce, ecco. Grazie, colonnello Giuliaci. Ciao Roberto, un saluto agli ascoltatori.